Sei. Ok, indietro coi tempi. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei. Non illuderti e non illudere nessuno. Io l'ho fatto ma ho imparato sbagliando. Sono un randaggio, non rispondo al comando. Alla parola ricchio ho sempre risposto dove e quando. Cash. È una sola chance, quindi non sprecarla. Datti la meta più lontana e pensa a superarla. Non c'è un limite, non esiste l'impossibile. Te lo dicono per renderti meno credibile. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei. E mi dicevano vattene via da questo posto, non voltarti indietro, tanto non è niente a posto. Alla tua vita devi dargli un costo, visto che niente si fa per niente, niente durerà per sempre. È il mio sogno e ci credo fino in fondo. È l'unico motivo per cui mi sento vivo. Ti consiglio di non consigliarmi. So come sbagliare, soprattutto so come aiutarmi. Questo rap a me ha dato una vita migliore. Lontano dall'amore e dalla delusione. Non so cos'è l'amore, sto lontano da certe persone. Col cazzo che gli do il mio cuore, conviene andare avanti, quindi non voltarti. Faccio passi da giganti, pensare alzati. Non me ne andrò, resto qui e vincerò. Lo stesso giorno mi alzerò e me ne andrò. Ciao. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei. E mi dicevano vattene via, questo posto non fa per te, hai un'altra via, la direzione scegli-la da te. Sei.